La vicenda di sabato coinvolge in modo particolare Forza Nuova, ma l'atteggiamento, le scelte, le tattiche della galassia neofascista ha riguardato comunque un tentativo di poter dar vita a dei movimenti o comunque infilarsi in movimenti no vax e no green pass. Bisognerebbe ricordare che nel 2020, in modo particolare anche ai tempi del lockdown, Casa Pound cercò con questo pseudo movimento delle mascherine tricolori di costruire una realtà di tipo movimentista. La cosa invece di sabato riguarda nello specifico Forza Nuova e ha anche delle spiegazioni, perché Forza Nuova ha subito nel maggio del 2020 una scissione molto consistente che ha dato vita alla rete dei patrioti e ha prosciugato molte sezioni territoriali. Da qui un tentativo estremo da parte di questa organizzazione, che è ridotta ai minimi termini, di infiltrarsi in questi movimenti, di radicalizzare delle parole d'ordine contro la dittatura sanitaria e, essendo in competizione con Casa Pound in modo particolare, diciamo, per l'egemonia nell'area del neofascismo, l'assalto alla CGIL ha un suo significato, cioè il marchio fascista che viene, come dire, impresso è un modo per tentare di identificare se stessi e metterlo al centro dell'area del neofascismo italiano. Ti volevo chiedere anche qual è il substrato culturale, politico, grazie al quale poi queste organizzazioni neofasciste riescono ad attecchire. Ma io sono un po' prudente rispetto al fatto che abbiano una così grossa influenza. Dal punto di vista dei tesserati siamo sulle poche migliaia, stiamo parlando di Casa Pound realisticamente di meno di 5.000 iscritti, di Forza Nuova siamo sotto i 1.000. C'è un problema più generale rispetto alle nuove generazioni che va oltre Forza Nuova, Casa Pound e le altre organizzazioni filofasciste o filonaziste, e riguarda in questo caso invece una memoria che si vorrebbe addirittura rovesciare rispetto alla storia italiana, per cui i fascisti erano degli eroi e dei martiri, i partigiani dei criminali, ma questo riguarda una campagna, o meglio delle campagne che sono in corso da anni e che non sono solo sostenute da queste piccole organizzazioni, ma da una destra che poi è la destra che si candida al governo del paese, o in parte lo è già. Forza Nuova non è Casa Pound, se vogliamo poi entrare nello specifico, ha una sua identità diversa, è un gruppo ultracattolico, ha dei riferimenti e dei modelli storici che sono soprattutto all'interno dei movimenti fascisti dell'Europa tra le due guerre, in modo particolare la Guardia di Ferro rumena, che si, come dire, caratterizzò per collaborare con i nazisti e per dar vita a dei pogrom anti-ebraici spaventosi a Bucarest, in modo particolare nel gennaio del 1941. Forza Nuova cerca di identificarsi in questo suo modello storico e, se uno la studia, capisce che da lì copia praticamente tutto, le parole d'ordine, ma anche addirittura i nomi a cui si ispira per marchiare le proprie cellule di base. Casa Pound ha invece un altro riferimento. Il riferimento è quello del primo movimento fascista italiano del 19-20-21, a cui guarda tentando di rieditarlo nei tempi presenti. È affascinata Casa Pound da come quel movimento crebbe velocemente, si basava su una realtà giovanile che nelle intenzioni, e poi ci riuscirono anche, doveva sbaraccare partiti, sindacato e Parlamento e costruire un ordine nuovo. Per cui sono due realtà specifiche diverse, hanno altri tratti in comune, quello di tentare di alimentare questi movimenti cercando in questo modo un proprio ruolo di opposizione, questi movimenti no vax e no green pass, è uno dei tanti tratti comuni dell'area del neofascismo. Comunque, insomma, nelle manifestazioni li abbiamo visto non solo a Roma, ma si erano infiltrati anche nella protesta di ristoratori, io apro, trovano uno spazio per cavalcare un dissenso che non è coperto da altre realtà? Sì, certamente, è un dissenso, come dire, più ampio, che va al di là di loro. Comunque, rispetto anche alle cose che si dicono e si scrivono in questi giorni rispetto al movimento no vax e no green pass, io critico il fatto che si dia una rappresentazione per cui ci sono gruppi di fascisti semplicemente che si infilano in un movimento buono, onesto e originale. In realtà le cose sono decisamente più complesse, ci sono diverse componenti. Al di là dei fascisti vi sono bande di quartiere, vi sono quelli che sono cresciuti sui social media e si sono alimentati da teorie complottiste, che pensano che vi siano delle operazioni di reset addirittura dell'umanità o addirittura di sterminio attraverso prima l'invenzione della pandemia e poi l'obbligo dei vaccini. Vi sono componenti diverse, anche di ultra da stadio, che non consentono, secondo me, un'analisi che sarebbe superficiale, per cui c'è del buono dappertutto in questo movimento, tranne che in una componente neofascista che cerca di fare danni e di strumentalizzarlo. Credo che la realtà sia decisamente più complessa.